Lo sviluppo del corpo animico, quale appunto è stato descritto, permette di percepire fenomeni soprasensibili. Chi però vuole orientarsi veramente in quel mondo non deve fermarsi a questo gradino di evoluzione. La semplice mobilità dei fiori di loto non basta. Il discepolo deve essere in grado di regolare e dominare i movimenti dei suoi organi spirituali con indipendenza e con piena coscienza. Altrimenti si troverebbe in balia di forze e di potenze esterne. Per evitarlo, deve acquisire la capacità di intendere la cosiddetta parola interiore. Per riuscirvi occorre che sviluppi non soltanto il corpo animico, ma anche il corpo eterico, cioè il corpo tenue che si palesa al chiaroveggente come una specie di doppio del corpo fisico. In certo qual modo è un gradino intermedio fra corpo fisico e corpo animico. Quando si è dotati di facoltà chiaroveggenti, si è coscientemente capaci di prescindere dal corpo fisico di chi ci stia dinanzi. Questa esperienza in una sfera superiore corrisponde a ciò che a un grado inferiore è l'esercizio dell'attenzione. Come l'uomo può distogliere la propria attenzione da qualcosa che gli sta davanti, in modo che per lui non esista, così il chiaroveggente è capace di cancellare del tutto un corpo fisico dalla sua percezione, in modo che esso diventi per lui fisicamente del tutto trasparente. Facendo così con chi gli sta dinanzi, il suo occhio spirituale vede allora il cosiddetto corpo eterico, oltre al corpo animico, che è più grande di entrambi e che entrambi compenetra. Il corpo eterico ha più o meno la grandezza e la forma del corpo fisico, di modo che riempie ad un dipresso il medesimo spazio occupato dal corpo fisico. È un organismo di estrema delicatezza e tenuità. Il suo colore fondamentale è diverso dai 7 colori contenuti nell'arcobaleno. Chi lo può osservare vede un colore che non esiste affatto per l'osservazione sensoria. È paragonabile al meglio con il colore dei fiori di pesco appena sbocciati. Volendo osservare solo il corpo eterico, occorre cancellare anche il corpo animico con un esercizio dell'attenzione uguale a quello prima descritto, altrimenti l'aspetto del corpo eterico appare trasformato dal corpo animico che lo compenetra del tutto. Le particelle del corpo eterico sono nell'uomo in continuo movimento. Innumerevoli correnti lo attraversano in ogni senso. Da quelle correnti la vita viene alimentata e regolata. Ogni corpo che viva ha un corpo eterico, lo hanno anche le piante e gli animali. Anzi, perfino nei minerali l'osservatore accurato può scorgerne le tracce. Le correnti e i movimenti citati sono all'inizio completamente indipendenti dalla volontà e dalla coscienza umana, come lo sono l'attività del cuore e dello stomaco nel corpo fisico. Questa indipendenza perdura finché il discepolo non assuma la direzione del proprio sviluppo per l'acquisto di capacità soprasensibili. Giunta ad un determinato grado, l'evoluzione superiore consiste appunto nell'aggiungere nel corpo eterico alle correnti e ai movimenti indipendenti dalla coscienza altri prodotti in modo cosciente. Quando l'educazione occulta è progredita al punto che i fiori di loto in precedenza descritti cominciano a muoversi, il discepolo ha già fatto molto di quel che porta a far nascere correnti e movimenti ben determinati nel suo corpo eterico. Lo scopo di questo sviluppo è di formare nelle vicinanze del cuore fisico una specie di punto centrale dal quale partono correnti e movimenti con colori e forme spirituali svariatissimi. In realtà questo centro non è un semplice punto, ma una struttura molto complicata, un organo meraviglioso. Esso risplende e scintilla spiritualmente nei più svariati colori e palesa forme di grande regolarità che si possono trasformare con rapidità. Altre forme e correnti di colore scorrono da questo organo nelle rimanenti parti del corpo e anche lo sorpassano, pervadendo ed illuminando l'intero corpo animico. Le più importanti di quelle correnti vanno ai fiori di loto, pervadono i loro singoli petali e ne regolano la rotazione. Poi scorrono al di là dalle punte dei petali per perdersi nello spazio esterno. Quanto più il discepolo è evoluto, tanto più vasto è il campo in cui quelle correnti si estendono.